si yo viene lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Secondo voi che ascoltate, Ha qualcosa a che fare la canzone perfetta con il Festival della Canzone? Provate a domandarvelo, visto che domani inizia la 59esima edizione del Festival Sanremo, il punto più alto della liturgia televisiva. Nell'anno santo della televisione questo è il momento di maggior concentrazione di tutti gli sforzi. Ma per quanto si cerchi disperatamente di tenere in vita questa sorta di momento mistico, in realtà l'attenzione scema sempre di più e quindi naturalmente devono essere effettuate delle operazioni di rinforzo di attenzione, e quest'anno ci stanno tutte. Ci sta il cachet sproporzionato di Bonolis, che sembra uno schiaffo alla miseria in momenti di recessione, c'è la canzone sullo sfinocchiamento di Povia, che desta giuste critiche, giusti strali del politicamente corretto, c'è il fantasma di Mina virtuale che apparirà, ci sono cantanti scrittori, uomini di pensiero che passeranno, attraverseranno questi momenti fatali per far ricordare agli italiani che almeno una volta l'anno dobbiamo ricordarci che siamo un popolo anche di musicisti. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora. Signore e signori, buonasera. Siamo arrivati al grande finale del 39esimo Festival della Canzone Italiana. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. E allora zitti, non riflettere, non discutere, ma sentire col cuore, buttarsi a capo fitto. E allora zitti, dritti verso il centro, non fuori ma dentro, non rumore ma silenzio. Ed ecco a voi la seconda serie, L'Arca di Noè, cantata da Iva Zanicchi, direttore d'orchestra Ezio Leone. Un volo di gabbiani. In questi giorni ci hanno seguito milioni e milioni di spettatori. Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Questa sera ascolteremo le 24 canzoni per intero. (800) 24 0024 è il numero per chiamare. Anche voi avrete un'impressione, un'immagine, un ricordo, qualcosa che vi balbetta e vi balletta nel cuore, legato al Festival di Sanremo, ma legato soprattutto alla canzone della vostra vita. Ma i due elementi hanno tra di loro qualche punto in comune? Ha a che fare qualcosa Sanremo con le canzoni della nostra vita, e la nostra vita legata comunque a un motivo musicale, a una canzone, a un ricordo? Io ricordo un Festival di Sanremo particolare in cui la Goggi cantava Maledetta Primavera. Me lo ricordo perché facevo il militare quell'anno. Mi ricordo che in caserma, nei neghittosi pomeriggi in camerata, andava e riandava questa canzone. Ecco, quell'anno me lo ricordo legato a quella canzone, ma per una purissima casualità. Per voi è la stessa cosa. Questa mattina ho in studio con me un amico, Alfredo Saitto. Alfredo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Quanti te ne sei fatti te di festival? Da discografico e giornalista, 27. Ecco, 27 festival di Sanremo. Poi non vai più a Sanremo da 5 anni circa, sì. E hai scritto un libro che non c'entra nulla con Sanremo, Viva Dio, Yesterday, la canzone perfetta, Donzelli canzoni. Ecco, cos'è, uno sfogo e un desiderio di catarsi aver riflettuto per un lungo periodo della tua vita sul Festival di Sanremo e poi scrivere una canzone su Yesterday? Ma insomma, intanto ti volevo far notare che credo la canzone, le canzoni, il formato canzoni è forse ciò che di più democratico possa esistere sulla faccia della terra. Tutti quelli che hanno due orecchi hanno il diritto di amare ciò che vogliono. Quindi in realtà non si entra in merito a una canzone molto brutta amata da qualcuno. Per amare bastano le orecchie, è il tuo motto. Assolutamente sì. E quindi di conseguenza non c'è nessuna persona, credo, su questa faccia della terra che possa dire fai male ad ascoltare quello, fai bene ad ascoltare quest'altro. Però poi alla fine il discorso può cambiare e andare su un altro piano. E il piano è quello forse più ristretto, forse più snob, quello che tenta di capire ciò che è realmente bello e ciò che invece non è bello. È una vecchia storia che va avanti sulla qualità e sul valore e sulla capacità dei critici di muovere. Sanremo secondo te ha mai sfiorato il bello? Diciamo che Sanremo ha avuto una decina d'anni, 8-9 anni, subito quelli seguenti alla grande vittoria di Domenico Modugno, Volare. Forse quegli anni sono gli anni più importanti del Festival di Sanremo, forse anche quelli più critici a livello di proposte. La morte di Tenco, il cambio di regime a livello di canzone, prima Papaveri e Paveri e poi invece Volare. Insomma, ci sono stati dei grandi cambiamenti e forse proprio quello è il periodo che più rispecchia il fermento italiano. Poi dopodiché diventa un meccanismo abbastanza trito e ritrito, come si suol dire. È una cosa abbastanza triste vedere una fiera della vanità poi messa al servizio di un gusto delle persone che probabilmente avevano più piacere di vedere qualcuno che stonava, qualcuno che cascava dalle scale, qualcuno che in realtà sentire una canzone degna di questo nome. Quindi è ovvio che poi alla fine mi sono ritrovato a fare una piccola considerazione, a domandarmi c'è una canzone perfetta o almeno quella che si può mettere i gradi di canzone perfetta. E sono arrivato alla conclusione che Yesterday, che è una canzone del 1965, essendo lunga 2 minuti e 8 secondi, ha tutte le prerogative per essere considerata una canzone perfetta. Ecco Alfredo, proprio per permettere a chi ci ascolta di fare le differenze, anche se, come giustamente hai detto te, non si possono fare discorsi di snobismo, di approccio intellettuale quando si parla di canzoni e di musica leggera. Facciamo soltanto ascoltare un attimo la canzone a cui è dedicato, penso, molto un periodo importante per scrivere un libro e analizzarla in tutte le sue storie, retrotesti, sfaccettature, interpretazioni. Quindi ti sarai dedicato a Yesterday per parecchio tempo. Ascoltiamola solo brevemente un pezzetto. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over. Ecco Alfredo, questa è una versione Yesterday, magari non quella più conosciuta, ma quella che più si avvicina, che si avvicina a quella. Sì, è nata così. È nata, prima di tutto, Yesterday, la prima canzone dei Beatles senza Beatles. Nel senso che prima erano i quattro ragazzi che salivano sul palco e suonavano le loro canzoni. Questa no, questa è una canzone di Paul McCartney, scritta da Paul McCartney, suonata da Paul McCartney e cantata da Paul McCartney. Quindi di conseguenza, ed è poi era una canzone diversa da quella che era, da tutte quelle che erano state fatte prima a quel momento. Quando Paul McCartney è andato dai suoi amici e ha detto io avrei scritto questa canzone, loro gli hanno detto ma noi siamo una band di rock and roll, quindi questa canzone che senso ha? E non gliel'hanno fatta pubblicare, ha dovuto aspettare un anno prima di pubblicarla nell'album Help. Però gli americani invece che detenevano i diritti dei dischi dei Beatles non avevano il controllo dei quattro Beatles, quindi in realtà appena hanno avuto in mano Yesterday l'hanno pubblicata in America proprio in tempo reale. Ed è in America che ha avuto il successo, è in America che è andata al primo posto, è in America che nei 24 mesi seguenti ben 3.000 artisti l'hanno coverizzata, l'hanno ricantata, e non 3.000 artisti tanto per chiamare, cioè stiamo parlando di Frank Sinatra, stiamo parlando di Wes Montgomery, stiamo parlando di tutti i jazzisti più importanti, gente che Tito Puente l'ha fatta a suo modo. Quindi, e insomma, quali sono i punti della perfezione? Tu hai detto già, nella sua durata che è la durata limitata. E sembra molto più lunga ascoltandola. Poi c'è una semplicità di fondo, un tema importante detto, raccontato in maniera semplice. anche perché anche qui insomma è una canzone della svolta. Il 23enne Paul McCartney si domanda: potrò continuare a fare lo stupidello giovanotto per tutta la vita, o dovrò cominciare a fare i conti sul fatto che sto crescendo e sto diventando una persona matura? E nonostante questo comincia a dire: beh, era bello quando la mattina ti svegliavi e facevi quello che ti pareva con leggerezza, invece adesso bisogna prendere coscienza. Quindi insomma un tema importante detto in maniera semplice, una canzone che funziona a chitarra e voce, nel senso che George Martin, loro produttore, anima, insomma forse il quinto dei Beatles, solo in seguito ha aggiunto un quartetto d'archi, però insomma serve, non serve, non importa. Quindi chitarra e voce, mi sembrava una canzone per quel momento, la canzone perfetta, la canzone pop, la prima canzone pop che possiamo paragonare benissimo alla Marilyn di Andy Warhol, proprio per un fatto di tempistica. Ma per questo, Alfredo, che c'è dietro tutta una favolistica, una narrativa fantastica sull'origine di questa canzone. Addirittura ho letto nel tuo libro una delle cose più mi ha colpito, che pare ci siano dei segreti manoscritti degli spartiti del 600 che avrebbe visto Paul McCartney proprio una volta che furono mandati i Beatles a vedere nella Torre di Londra una stanza segreta con spartiti segreti del 600 e abbia colto quasi un segreto alchemico della canzone perfetta. Beh, sai, quando c'è un successo così straordinario è ovvio che uno degli esercizi, ma questo avviene in tutti i campi, è quello di creare e mettere dubbi, veri o falsi che siano, però è importante mettere i dubbi. Certo, una canzone Yesterday che ha avuto questo successo straordinario e che resiste nel tempo, non poteva evitare questo attacco al falso, l'attacco al plagio, e ci hanno provato molte volte. In realtà tutti i tentativi di dimostrare il plagio di Yesterday sono andati falliti, perché poi in realtà la prova vera non c'è. Se uno ha plagiato ed è stato condannato, non è certo Paul McCartney, ma è stato George Harrison, che invece in realtà incappò in Something, in una grande causa, e la perse, quindi di conseguenza. Cosa dice in sintesi Yesterday questa canzone? Racconta qual è il racconto semplicissimo che sta alla base della canzone, che la rende anche questo perfetta. Allora, il racconto è molto semplice. Lui parte da un assunto dicendo: oggi mi ritrovo a dover fare i conti con la mia esistenza. Nonostante oggi sia pressato da una serie di responsabilità, io credo nello ieri, mi piace credere nello ieri, quando io in realtà queste responsabilità forse non le sentivo, non venivo avvolto da queste problematiche, e quindi in realtà forse vivevo un pochino più, con più leggerezza, però in realtà oggi mi devo fare carico di una serie di problemi, anche perché si cresce. Ecco, il concetto era che Paul McCartney prendeva atto del fatto che stava crescendo, suo malgrado. Ecco, alcuni ascoltatori cominciano a darmi il loro segnale di esistenza su Facebook. Gilbert mi dice: le vendite del Festival di Sanremo valgono l'1% del mercato italiano della musica, fonte Sole di ieri, è chiaramente un fenomeno televisivo, o se va bene di costume, anche se alcune rare cose mi sono piaciute ultimamente. Poi dice: sul Festival di Sanremo bisognerebbe cambiargli il nome, ormai le canzoni non se le fila più nessuno, a meno che non parlino di gay, di stupri, di aborti o di incesti. Carolina dice: in comune hanno soltanto il sostantivo, e era il titolo della mia trasmissione, La canzone della vita e il Festival della canzone. Quindi, visto che piace al pubblico il contrasto, vediamo subito un assaggio di quello che potrebbe essere il senso di ciò che guarderemo in televisione soprattutto da domani in poi riguardo al Festival di Sanremo. Signore e signori, Bimbo Baudo! Marco se n'è andato e non ritorna più, il treno delle 7:30 senza lui. Non ci posso credere, buonasera! Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Magari ti chiamerò, rotolino amoroso e tutto, ta-ta-ta. Ecco i giovani, i campioni di domani. Con te partirò. Incominciamo. diciamo? Benvenuti al 52esimo Festival della Canzone Italiana. Vola, colomba bianca, vola. Ecco, una volta l'anno facciamo sempre questa operazione masochistica di ricordarci tutto il passato del Festival di Sanremo, ma la televisione sarà piena da domani, come giustamente aveva detto prima Alfredo Saitto, ma il Festival di Sanremo è un fenomeno televisivo. La televisione si rimpingua di Sanremo, vive di Sanremo. Sanremo, per quello che ho avuto io di esperienza, è un correre di telecamere, quella piccola cittadina infreddolita durante l'anno frequentata soprattutto da anziani turisti, telecamere che riprendono altre telecamere, cercano di riprendere momenti di vivacità, perché Sanremo poi viene sparpagliato per tutti i palinsesti. Sanremo il pomeriggio, Sanremo la mattina, Sanremo saranno i reduci, Sanremo saranno quelli che hanno vinto, saranno quelli che hanno perso, quelli che vorranno far polemica, quelli che saranno dotti, quelli che saranno naturalmente affascinati e via dicendo. Esisteva un luogo comune che Sanremo, l'importante era partecipare e non vincere, perché poi chi vinceva mai diventava un disco di successo. Questa profezia vale ancora? Vasco Rossi che arrivò ultimo, Zucchero che arrivò ultimo. I Giallis che arrivarono primi e vivono solo nelle memorie delle barzellette. Esatto, quindi c'era un concetto dicendo ma non importa lì vincere, poi sarà il pubblico a dettare il successo. Il problema è che oggi se arrivi ultimo è come se non l'avessi fatto il Festival di Sanremo. Già se arrivi terzo è come se non l'avessi fatto, perché allora accadeva, c'era una vetrina, cioè il Festival di Sanremo era una vetrina che metteva in condizione il pubblico di scegliere e di andarsi poi a comprare i dischi. Oggi i dischi non si comprano più, quindi in realtà che cosa scegli? Che meccanismo si va a innestare? Niente. Quindi, e secondo me oggi, io sono della teoria che l'anno prossimo dobbiamo farla finita. 60 anni. Bene, secondo me ce ne sono anche 10 di troppo, ma comunque 60 anni è un bel numero, no? Al 60esima edizione si fa una edizione pazzesca, si chiamano tutti i viventi che hanno avuto a che fare con Sanremo e si fa una grande occasione per Baudo per tornare ancora una volta. Per Baudo, Bonolis, tutti i viventi presentatori che hanno avuto modo di avere a che fare con Sanremo, si fa una grande presentazione corale. E sai, una volta sono andato a vedere una conferenza stampa di Del Noce e quando un direttore di rete alla fine dice, parlando di Sanremo, dice: poi non è mica obbligatorio continuarlo a fare nella vita. È una cosa che ti fa abbastanza pensare. È già un sintomo e una profezia. Melog 2.0. Ieri a lei io non ho voluto credere, era tutto così facile, ma ieri lei è andata via. Oggi ormai dirle addio non è possibile. Ecco, siamo riusciti anche a fare questo orrore, questo è Yesterday, ieri a lei, cantata da Claudio Villa, quindi mi sembra l'orrendo mix che stiamo cercando di fare questa mattina tra canzone della vita e il Festival della Canzone è stato sintetizzato mirabilmente in questo obbrobrio musicale. Alfredo Saitto. Non tanto a livello melodico, perché poi a tutto si può dire, certo, che Claudio Villa non fosse un cantante intonato che tentasse di mettere dentro il suo sentimento nelle canzoni che cantava. Però, certo, la malefatta dei Los Marcellos Ferial che hanno tradotto questo tradotto. Sì, diciamola tutta, dietro c'erano i Marcellos Ferial. Esatto, che hanno scritto il testo di questa canzone, ovviamente cambiando il tema, nel senso facendola diventare una canzone d'amore. E ricorrendo a quel meccanismo orrendo dei testi delle canzoni italiane che sono: io vado lì, tu rimani qui. perché sto qua, perché in realtà poi alla fine, non avendo le tronche, l'italiano è obbligato a fare dei sentimenti un viaggio, non si sta mai fermi, sono rimasto solo. Beh, esiste su e giù, vai via, vai sopra, sei sceso, cioè in realtà non si sta mai fermi, ma perché è un problema di tronche, non è un problema di argomenti di canzone. Ecco, te lo spieghiamo magari, perché non tutti è detto che sappiano cosa sono le tronche, sono delle sillabe che hanno, che gli inglesi hanno, no? Hanno, perché le parole finiscono in un certo modo, tant'è vero che il napoletano e Pino Daniele e i grandi hanno risolto il problema, riuscivano a fare delle canzoni che suonassero come quelle inglesi, perché la lingua napoletana si presta a questo, alle tronche, ecco, le famose tronche. Dalle tronche alle tronchese, noi avevamo detto che la proposta di Alfredo Saitto era di fare una meravigliosa apoteosi del Festival di Sanremo in occasione della 60ª edizione, cioè l'anno prossimo. Questo dovrebbe essere l'ultimo anno, l'anno della preparazione, poi l'anno prossimo la grande festa di Sanremo, con tutti i conduttori, tutti i cantanti, tutti i vincitori, tutti i perdenti, tutti i figli, tutti gli orfani, tutte le vedove, tutti, insomma, fare questa grandissima festa prima della sepoltura definitiva, per non sentire mai più cose del genere. Ho cantato una canzone per i bimbi del Darfur, poi ho scritto una canzone sul piccione viaggiator. Io ho fatto 15 festival con questo, ma voi non cambiate mai. Ma forse non si capirà, perché scrivo con difficoltà. Cambiate mai, sono sempre le stesse stronzate che dite, ma veramente, non cambiate mai. Ma perché? Gay home, gay home. Anche tu però c'hai un problema. Dimmelo. Un cantante che ha appena preso migliaia di dollari in Russia e tutto il mondo, eppure ciononostante riesce a stonare ancora a Sanremo. Tu stai dicendo delle grandissime stronzate. Non lo sapete che Luca era gay, e forse anche il piccione Luca era gay, è un nome inventato. Ed è incredibile come ti perdonino questo pubblico. E forse Luca era gay, o forse non era gay, o forse... Facciamo sapere al pubblico, allora, visto che diciamo la verità, quante volte mi hai chiesto di venire in Russia con me? Lo vogliamo dire al pubblico? Non mi hai mai portato. Ma me l'hai chiesto o non me l'hai chiesto? Migliaia di volte. E allora? Perché Luca era gay, ma ora è guarito! E siamo tutti contenti in questa ammirabile sintesi di Paolo Corleoni e Fabrizio Intonti. C'è tutto quello che di Sanremo bisogna sapere. L'anticipazione della canzone scandalosa, se ne parla da mesi, sembra che l'unico problema sia quello di Povia, se veramente il suo amico Luca fosse o non fosse, per trastullo, per sollazzo, per destinazione divina, gay o meno. E poi questo indimenticabile alterco fra Toto Cotugno e Mario Luzzato Fegiz, il grande critico, colui che segue sempre Sanremo, l'integerrimo censore della canzone italiana, e Toto Cotugno, l'uomo dal capello scolpito come Big Jim, che si rinfaccia una vicenda, l'uno all'altro di stonare, l'altro all'uno di smarchettare e volerlo seguire nelle sue tournée in Russia. Alfredo Saitto. Che ti devo dire? È molto triste tutto ciò, è un scenario abbastanza deprimente. Non sembriamo snob a dire che è triste, ma no, deprimente. Ma io ti vado anche a... provo a spiegare, insomma. Io credo che oggi sia obbligatorio tentare, non dico riuscirci, ma almeno tentare di portare a galla tutto quello che ha un minimo di attenzione valore. A dire queste cose possono essere interpretate male. Un minimo di valore. Molte cose vengono a galla da sole. Beh, ecco, quelle sì, però in realtà quelle le notiamo, le vediamo, le allontaniamo. Invece ci sono altre cose che secondo me stanno in una marmellata, in un magma, dove tutto è il contrario di tutto, dove tutto viene spacciato per un'altra cosa. C'è una confusione, non si capisce più chi è il buono, chi è il cattivo, chi è il cretino e chi è l'intelligente. Il punto più sublime di quello che dici è la commissione alto e basso di cui vanno tutti, esatto, i post situazionisti. Quest'anno saranno Ammaniti, Serra, Marini, Giordano e Merini che scriveranno sul palco lettere d'autore al festival. Questa è la mania sottile, la perversione occulta, ma nemmeno tanto, di Bonolis, che vuole anche lui dare il lato al suo aspetto culturale. Tu capisci che il concetto della cultura alta e bassa è un concetto obsoleto. È un concetto che dovrebbe ormai far parte soltanto di una ristretta cerchia di iscritti al club degli scacchi, cioè credo. Esistono delle culture che mettono d'accordo tutto. La cultura alta e bassa è una cosa così, così parziale, così anche offensiva nei confronti della cultura. È funzionato un certo periodo di televisione in cui i direttori di rete erano brillanti post-situazionisti come Carlo Freccero, che avevano questa idea della contaminazione. Esatto. Ma la contaminazione, in realtà, siamo già ormai tutti belli che contaminati. Pino, buongiorno. Buongiorno. Io mi riallaccio al discorso di poc'anzi, che Sanremo debba finire, si immagina che si debba finire l'anno prossimo e via discorrendo. È un'ipotesi che abbiamo fatto. È un'ipotesi così. Però è una festa bella che può anche durare un mese. Come le Olimpiadi, poi lo si può provare a fare ogni quattro anni. Sanremo. Mi chiedevo cosa fosse Sanremo. Sanremo non è più nemmeno che una festa. Noi a Palermo abbiamo per esempio la festa di Santa Rosalia. Non è soltanto tradizione, perché ogni anno viene cambiata e viene interpretata diversamente, ecco, la crisi spirituale di questa santa che sceglie poi l'eremitaggio, via discorrendo, ecco, e si interpreta in modo diverso, quindi c'è più ansia di rinnovamento nella festa di Santa Rosalia che nel Festival di Sanremo. Esatto, cioè, mi dispiacerebbe se Santa Rosalia dovesse finire, mi dispiacerebbe che questa festa italiana, ecco, immagino questa festa italiana, la festa della televisione, la festa della canzone italiana, che poi canzone italiana si fa per dire, insomma. Io ricordo il Sanremo di qualche anno fa, quando di molti anni fa, perché li ho seguivo tutti, che quando si fischiettava la canzone vincente, via discorrendo, quando il pianino passava con le canzoni di Sanremo e via discorrendo. Ecco, tutto questo ormai è finito, adesso è rimasta soltanto la festa, che ogni anno si svolge in modo diverso. Chi la vuole vedere la vede. Io quest'anno, ecco, questo non so neanche se la vedo, si immagina, martedì ci sono le partite, sabato c'è, si immagina, Palermo Juventus, e io vado a Sanremo. Però poi magari alla fine finirò col guardarla, perché questo è un momento in cui tutti gli italiani ci troviamo vicini. Beh, l'ho detto, è una liturgia profana dell'anno televisivo da cui comunque non ci si sottrae, anche se noi vogliamo fare le verginelle, che stacchiamo il televisore, diciamo, ci chiudiamo le orecchie, facciamo con la lingua, alla fine comunque sappiamo cosa accada a Sanremo. Io mi sono volutamente astenuto quest'anno da occuparmene, quindi non occupandomi di televisione in questo specifico, quindi non volevo occuparmene. Ma io rispetto anche quello che dice il nostro radioascoltatore, nel senso che, come tutte le abitudini, poi alla fine uno fa fatica a rinunciarci. È ovvio che lui sia un po' addolorato, tanto non succederà, e lo tranquillizzo, secondo me ci sarà la versione 60, 61, 62, sarebbe bello se fosse l'ultima, la sessantesima e basta. Comunque, sai, ci si affeziona, ed è anche giusto essere addolorati della fine di una cosa, no? Giacomo, buongiorno. Lei riuscirà a elaborare questo ipotetico lutto di Sanremo? Guardi, io le dico una cosa. Secondo me il dio soldo poi alla fine finisce e vince sempre lui. Io mi ricordo, Nicoletti, abbiamo la stessa età, no? Quando c'era Carosello, com'era bello, no? Com'era... Eppure Carosello è finito. È bello che non ci sia più, però, così abbiamo nostalgie che non hanno modo però, di... Però Carosello non c'è più, perché? Perché i spot fanno più soldi. Allora, secondo me è anche giusto che Sanremo, il prossimo anno si farebbe una bella festa, un bei cantanti che ci sono ancora, farlo, punto e basta, perché le tecnologie, ormai i dischi, non si vendono più. Allora, fin quando i discografici guadagnano ancora un po', Sanremo ci sarà. Quando non guadagneranno mai più niente, Sanremo sarà finito. In una battuta, Alfredo Saitto, quello che dice il nostro ascoltatore ha dei margini di credibilità? Assolutamente. Finirà sì. Quando finirà completamente il mercato della vendita dei dischi? Ma in realtà è già, sai, parlando, io poi faccio i nomi, parlando con il direttore della FIMI, dell'associazione che raccoglie l'85% del mercato discografico, dell'industria discografica, quando ti dicono che insomma su Sanremo loro non hanno più interesse, che in realtà lasciano libere i loro associati se partecipare o meno, e quindi ci sono tutta una serie di meccanismi dove alla fine si prova ad investire il meno possibile e a portare a casa il più possibile, perché sai che una volta il Festival di Sanremo era un investimento della casa discografica. Io quando lavoravo in RCA partivamo proprio con gli alberghi, i soldi, le cose, pagavamo tutto noi. Da alcuni anni sai che ogni cantante poi ha una sorta di rimborso, quindi in realtà non è soltanto un investimento totale, anche perché le case discografiche hanno detto non vendiamo meno dischi, che veniamo a fare? Quindi gli ospiti noi li portavamo gratis, Derry Hall and John Oates, John Denver, tutti gratuitamente al Festival di Sanremo, il Spandau Ballet per quello che riguardava l'RCA, ma tutti, Queen, non hanno preso una lira. Adesso no, invece i guest, quegli ospiti o i super ospiti, sono tutti profumatamente pagati. Quindi è uno spettacolo con tutti i crismi di un normale spettacolo di intrattenimento televisivo, e finisce questo momento quasi fatale, quasi magico, di lancio di qualcosa di nuovo che non esisteva sul mercato. Allora, riprendiamo a parlare di Canzone per la Vita, di Festival della Canzone, con Alfredo Saitto, che ha scritto Yesterday, la canzone perfetta, Donzelli, Canzoni Editore, un libro dedicato a un suo studio sulla canzone Yesterday, che giudica pitagoricamente perfetta. E dalla canzone perfetta siamo arrivati a discutere dell'evento Sanremo. Non più possibile chiamarlo Festival della Canzone, ma un evento televisivo, una grande kermesse, una sorta di iniezione di formalina nel cadavere televisivo che gli ridarà un po' di vitalità in un momento in cui viene misurato per quello che la persona lo gradisce. Fabrizio, buongiorno. Buongiorno a voi. Niente, volevo premesso che sopravviverò molto serenamente se anche Sanremo sparisse, quindi non è... abbiamo visto di peggio. Guardi, non è che questa è una fatalità che si attuerà in maniera sicura e momentanea. Alfredo Saitto questa mattina ha lanciato questa idea, diciamo, perché non facciamo una grande festa dei 60 anni di Sanremo e lo chiudiamo, poi con possibilità di piccole riprese, vero Alfredo? Sì, sai che c'è sempre questo concetto nella musica della reunion, no? Si riunisce la grande band che si è separata da tanto tempo, allora teniamoci l'opzione della reunion, cioè nel senso che dopo, una volta chiuso Sanremo, si può fare una edizione speciale dopo 4-5 anni e tentare di ricordarla e di dire quanto è bello. Tentiamo anche di lasciare la possibilità al Festival di Sanremo di diventare qualcosa del passato, perché questo concetto sempre di modernizzarlo, di essere sempre così attuale, non dà mai la possibilità di dare un valore a una cosa che secondo me ha avuto un valore. Bisogna andare molto tempo indietro nel tempo, quindi congelarlo il momento di massimo fulgore e rimane lì come una mummia, così finisce. Fabrizio, lei cosa ha da dire su questo? No, io dicevo bisogna anche fare una riflessione su perché poi siamo arrivati a questo punto. Cioè, secondo me è una questione proprio di dove è puntato il riflettore. Il riflettore da tantissimi anni, non ai tempi in cui appunto, come diceva l'ascoltatore precedente, si canticchiavano le canzoni per strada. Il riflettore si è spostato dagli artisti, quindi dall'aspetto musicale, all'aspetto, diciamo così, dello show. Quindi io mi ricordo con terrore, direi anche con rabbia, Una volta in cui c'era Pippo Baudo, aveva finito di presentare Shakira, se era Shakira non ricordo, quindi ospite, e giocava con questo pallone enorme alla modi il dittatore Charlie Chaplin, e alla fine diceva anche ah come mi sto divertendo, cioè lui si stava divertendo, noi avremmo voluto ammazzare. Io ricordo invece forse anche con commozione dei momenti. Le posso dire una cosa, Campale, cioè... Fabrizio, no, poi la lascio continuare. Noi siamo il paese di balocchi dei grandi conduttori televisivi. In realtà noi rappresentiamo il loro paese dei balocchi, è chiaro che si divertono, è come Disneyland per loro, noi siamo i pupazzi con i quali si alzano la mattina e giocano, sono gli eterni bambinoni, bisogna anche voler loro bene. E c'è anche un'altra cosa che volevo far notare, che è un meccanismo proprio teatrale, drammaturgico. Il comico, quando dice una battuta, poi ride subito, attaccata alla sua battuta ride. Ed è un po' il meccanismo che usano chi sa fare, sa gestire i media. Fare una cosa e dire, mentre la stai facendo e sei protagonista, ah come mi diverto. In modo che così è lo stesso il comico che dice anche una battuta abbastanza cretina e però ride della sua battuta cretina. Comunque già hai fatto breccia, capito? Prego Fabrizio, termini il suo intervento. Quindi dicevo... Io sposterei veramente il riflettore sugli artisti, perché dicevo Frank Gambale, mi ricordo Antonella Ruggero e tanti altri artisti, quando c'erano questi ospiti che intervenivano a reinterpretare le canzoni con loro, veramente elevavano il livello di Sanremo. Poi basta guardare il pubblico, con tutto il rispetto, vecchie carampane, signori anziani, cioè addirittura gente come gli After Hours ha difficoltà ad andare a Sanremo perché si sente fuori posto, quindi è questo il problema. Cioè, conta più tutto quello che c'è intorno di chi sta sul palco a cantare. Sì, anche il pubblico di Sanremo, il pubblico nel teatro Ariston è un pubblico di reliquie. Le prime tre file sono i parenti dei funzionari RAI, le mogli, gli amici, gli amanti, i nipoti, le donne di servizio, le babysitter e via dicendo. Ma le file dietro sono queste signore che una volta nella vita, l'anno, si comprano questo biglietto costosissimo, cercandolo attraverso canali anche rituali, si mettono l'abitino da sera, si mettono la pellicetta di gatto morto e vanno lì e hanno la loro botta di vita. Michele, salve. Dato in linea? Sì, come no, la stiamo sentendo forte e chiaro. Ah, buongiorno. Senta, io sono un commerciante e quando una cosa non va nella mia attività io la tolgo subito e ne vado a proporre un'altra alla gente. Io volevo sapere, essendo un contribuente, se c'è un consiglio d'amministrazione dei contribuenti che gestisce tutte queste cose qua, perché io sono stanco che questi qua mi gestiscono i miei soldi a modo loro, a piacere loro, regalando tutte queste migliaia di euro, milioni di euro, quando poi dobbiamo fare le collette per avere dei soldi per l'unità e quella roba lì. Basta, sono stanco. Possibile che non si riesca a creare un comitato dei contribuenti? Vabbè, adesso è chiaro che si profila ancora Sanremo come un'operazione dal punto di vista brutalmente industriale, ancora remunerativa per l'azienda che lo produce, se no non lo farebbe. L'hanno dovuto anche duplicare, no? L'investimento grosso della RAI nei confronti del Festival di Sanremo, e uno si domanda come mai la fanno 5 giorni, la fanno lunghissimo, perché poi alla fine quella grande cifra che è il budget generale del Festival di Sanremo si deve spalmare. È ovvio che se tu prendi, adesso dico dei numeri a caso, 50 milioni di euro e li ripartisci in 5 ore di programma, vuol dire che ogni ora di programma è costata 10 milioni. Però se invece la vai a spalmare in 10, 15, 20, 30 ore, probabilmente il budget ritorna a essere un budget umano. Ecco perché in realtà il Festival di Sanremo per la RAI è una campagna, proprio come Napoleone, partono e vanno a fare la campagna di Sanremo tentando di riportare a casa che cosa? Una vittoria, ma neanche tanto, gli ascolti che servono in questo meccanismo particolare perché a riportare su una serie di valori che poi verranno valutati per la vendita della pubblicità dell'anno. Da domani se ne parlerà da 1 mattina fino a Marzullo, quindi assolutamente. È chiaro che è come un maialino tagliato a pezzi, anche l'ultimo zoccoletta va bene, esatto, per tirare avanti. Non si butta nulla, capito? Del quindi non tutto sommato, ancora nulla. Da un punto di vista industriale, di investimento industriale, certo, ha la sua convenienza. Quindi non certo, è... però poi alla fine è una contraddizione in termini. Cioè, diciamola, l'ascoltatore che è giustamente arrabbiato dicendo ma perché non si riesce mai a far finire qualcosa? Sembra proprio che è un po' come il concetto della nostra urbanistica, no? non abbiamo il concetto di radere al suolo qualche cosa. Cioè noi il Bobul di Parigi l'avremmo mai fatto in Italia, dove sono il Bobul è nato sopra il vecchio mercato parigino. Sono andati lì, hanno raso al suolo il vecchio mercato parigino, l'hanno raso al suolo senza avere neanche un po' di ritegno e hanno costruito il Bobul. Può piacere, non può piacere, però hanno costruito qualcosa di nuovo. Allora, Raimondo, anche lei è per l'archeologia industriale o sarebbe per radere al suolo? Io non raderei al suolo assolutamente, anzi, innanzitutto salve a tutti. Salute. Non raderei al suolo il Festival di Sanremo perché conosco tanta gente che lo aspetta come evento mediatico, come festa, anche per vedere se la solita, insomma, velina o accompagnatrice di turno cade dalla classica scala. Sì, ecco, bisogna anche pensare, per molti è veramente un momento felice nell'anno televisivo, quindi bisogna avere anche rispetto di loro. Magari sarebbe bene che non fosse così centrale nella vita televisiva di tutti gli abbonati, però è così. Guardi, io lo seguo quando posso, mi piace come evento mediatico, come tensione, come fatto internazionale, insomma, però vedo che ci sono tante persone che lo seguono, che lo aspettano, al di là della canzone, delle case discografiche che non hanno più interesse. E poi io ho 33 anni, sento parlare della crisi di Sanremo che saranno almeno una trentina d'anni. Sì, sì, da quando io ho l'età della ragione mi occupo di queste cose, ne sento parlare. Grazie Gianfranco, concludiamo con lei. Sì, buongiorno. Mi sente? Come no, perfettamente. Bene, bene, innanzitutto voglio fare i complimenti a lei. Sì, però abbiamo, guardi, 30 secondi scarsi, dica. 30 secondi è questo. Allora, io in 60 anni, ho 60 anni, avrò visto 6 o 7 volte dei pezzettini di Sanremo. Una volta ogni 10 anni. Beh, più o meno, sì. Mi ricordo con nostalgia il primo all'oratorio, quando non avevamo ancora la televisione. Però voglio dire una cosa, che si chiuda Sanremo o si apra, non so chi ha detto che è un fenomeno di democrazia, è vero, ognuno si ascolti quello che vuole. Mi domandavo se lei fosse così disponibile a fare un'altrettanta trasmissione contro altre trasmissioni più gravi come il Grande Fratello. Guardi, è stata la mia attività radiofonica per almeno 17 anni, mi sono un po' stancato, l'ho fatto per tanto tempo, quindi sono l'ultima persona che può essere accusato di non parlare della televisione in termini critici. Grazie Alfredo Saitto, grazie a quelli che hanno seguito e ascoltato, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.